Mentre se invece parliamo di Bologna-Juve, ore 20:45... Lì è tutto un altro paio di maniche, perché in realtà se anche in quel momento le nevicate che noi comunque prevediamo in Emilia non saranno particolarmente abbondanti, però arriviamo da due giornate piene di neve continua in quel di Bologna, quindi lì non lo so, direi che forse il campo più a rischio in questo turno sarà proprio quello di Bologna. Cioè due giornate di neve piena vuol dire sabato e domenica o venerdì e sabato? Già da venerdì. Poi in realtà domenica tenderanno ad attenuarsi queste precipitazioni, quindi magari ci sarà anche il tempo di sistemare un po' la situazione, però ancora una volta l'Emilia sarà una delle regioni più colpite, proprio la parte più meridionale, quindi anche verso Bologna, quindi la vedo un po' a rischio questa. Anche nel caso, scusami e poi non ti torturo più, anche nel caso di anticipo alle 15 a questo punto. Bravo, perché c'è un problema proprio di spalatura, no? Bravissimo, esatto, perché il grosso in realtà, come dicevi, è tra venerdì e sabato, quindi che si giochi alle 15 o alle 20:45 cambierà la temperatura di 1-2 gradi, semmai sarà un filo meglio, ma certo. Il problema è un altro. Sì, questo, è chiaro, dopo Parma e Juve evidentemente l'Emilia quest'anno non è molto ospitale con la Juventus.